Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. I cittadini di Dublino, né più né meno che la gente di campagna, hanno un grande e lodevolissimo desiderio di conoscere gli affari del loro prossimo. Ed è impossibile per un gentiluomo, per modeste che siano le sue aspirazioni, e si sa che le mie sono sempre state modestissime, arrivare nella capitale senza che il suo nome venga subito stampato su tutti i giornali della città e ripetuto in una quantità di circoli. Il giorno dopo l'arrivo, il mio nome e i miei titoli erano già sulla bocca di tutta Dublino. Moltissimi membri della buona società mi fecero l'onore di farmi visita nel mio appartamento, non appena ne scelsi uno. E questa fu una decisione da affrontare immediatamente, perché gli alberghi della città non erano che volgarissimi buchi, inadatti a un gentiluomo elegante e distinto come me. Di questo ero già stato informato da altri viaggiatori sul continente, perciò, una volta deciso di trovare subito un alloggio, dissi ai postiglioni di procedere lentamente su e giù per le strade finché non avessi trovato un posto quale si conveniva al mio rango. Questo sistema, insieme al contegno e alle rozze domande di quel crucco di Fritz, che aveva ordine di informarsi presso varie case finché non si capitasse su un appartamento adatto, ebbero l'effetto di radunare attorno alla mia carrozza una turba immensa. Quando finalmente si trovò l'alloggio, si sarebbe detto che io fossi il nuovo comandante generale della piazza, tanto grande era la folla che ci seguiva. Finalmente mi decisi per un'elegante suite in Capel Street. Diedi una mancia generosissima ai postiglioni sbrindellati che mi avevano condotto fin lì, e dopo essermi installato nelle mie stanze con i bagagli e Fritz, chiesi al padrone di casa di trovarmi un altro domestico che portasse la mia livrea, un paio di portantini robusti, affidabili e forniti di portantina, e un cocchiere che avesse dei bei cavalli da tiro da noleggiare per la mia carrozza, e anche qualche buon cavallo da sella da vendere. Gli diedi una somma generosa come anticipo. Credetemi, in questo modo la richiesta ebbe tanta risonanza che l'indomani nella mia anticamera si celebrò una vera e propria sfilata. Stallieri, lacchè e maître d'hôtel accorsero in numero spropositato a offrirmi i loro servizi. Per l'acquisto dei cavalli ebbi così tante proposte sia da parte di mercanti che dai gentiluomini più distinti che avrei potuto far montare in sella tutto un reggimento. Sir Luller Goller venne a offrirmi la più elegante giumenta baia che mai mosse un passo. Milord Dandoodle aveva un tiro a quattro che non avrebbe fatto sfigurare la carrozza del mio buon amico imperatore, e il marchese di Ballyraget mandò un suo gentiluomo a presentarmi i suoi complimenti e a dirmi che se fossi passato dalle sue scuderie o gli avessi fatto l'onore di far colazione con lui, mi avrebbe mostrato i due più bei leardi d'Europa. Decisi di accettare gli inviti di Dandoodle e Ballyraget, ma comprai i miei cavalli dai mercanti. È sempre sistema migliore. E poi, a quei tempi in Irlanda, se un gentiluomo garantiva per il suo cavallo e poi l'animale non era in buona forma o nasceva qualche problema, l'unico rimedio che vi si offriva era una pallottola nel panciotto. Io avevo giocato al gioco delle pallottole troppo sul serio per ricorrervi alla leggera. Posso dire, e per quanto mi riguarda ne sono orgoglioso, di non aver mai preso parte a un duello se non per un motivo reale, valido e sensato. C'era in questa piccola nobiltà irlandese un candore che mi divertiva e mi stupiva. È vero, raccontano più frottole dei loro schietti vicini d'oltremare, ma è anche vero che se le bevono più facilmente. In una sola settimana a Dublino io mi feci una reputazione che a Londra avrebbe richiesto 10 anni di impegno e una montagna di soldi. E così io avevo vinto 500.000 sterline al gioco, Io ero il favorito dell'imperatrice Caterina di Russia. Io, l'agente di fiducia di Federico di Prussia, ero stato io a vincere la battaglia di Hochkirch. Ero anche cugino di Madame du Barry, la favorita del re di Francia, e mille altre cose ancora. Anzi, se devo dire la verità, io stesso avevo accennato molte di queste storie ai miei cari amici Belli Raggett e Kohler, che non tardarono ad abbellire gli spunti da me forniti. Dopo essere stato testimone degli splendori della vita civile all'estero, lo spettacolo di Dublino nell'anno 1771, quando ci ritornai, non mi ispirò certo rispetto. Era selvaggia, quasi quanto Varsavia, senza nemmeno la grandiosità regale di quest'ultima. La gente era vestita miseramente, peggio di qualsiasi altro popolo che avessi mai visto, se si eccettuano le orde zingare sui banchi del Danubio. Come ho detto, non c'era in tutta la città un solo albergo degno di alloggiare un gentiluomo d'alta condizione. Gli sfortunati, che non potevano permettersi una carrozza e camminavano per le strade di sera, rischiavano ad ogni passo di imbattersi nei coltelli delle donnacce e dei ruffiani appostati lì accanto. Una banda di canaglie straccione inselvatichite, ignare di cosa fossero le scarpe o il rasoio, e quando un gentiluomo saliva sulla portantina o in carrozza per farsi portare al suo ricevimento serale, le fiamme dei fiaccolai gettavano luce su una tale marmaglia di musi animaleschi, farfuglianti da spaventare qualunque persona distinta con i nervi a posto. Per fortuna, i miei erano particolarmente saldi. E poi, non ero al primo incontro con i miei amabili connazionali. So che questa descrizione ecciterà le ire di alcuni patrioti irlandesi, che non amano che si insulti l'indigenza della nostra terra e si infuriano se se ne dice la pura verità. Eppure, diamine, era un misero buco di provincia, Dublino, negli anni lontani di cui parlo. Molte residenze signorili tedesche, anche di infimo grado, son ben più raffinate. C'erano allora, è vero, quasi 300 pari del regno che vivevano lì stabilmente, e una camera dei comuni, e il milord sindaco con tutta la sua amministrazione, e l'università, tutta schiamazzi e baldoria, piena di studenti che provocavano ogni notte disordini non indifferenti. frequentavano con regolarità le galere. Buttavano in acqua stampatori e bottegai che gli stavano sui nervi e facevano il buono e il cattivo tempo al teatro di Crow Street. Ma io avevo conosciuto troppo da vicino la migliore società d'Europa per essere granché tentato dalla compagnia di questi turbolenti signori. Ed ero un po' troppo distinto per prender parte alle dispute e agli intrighi politici del milord sindaco e dei suoi assessori. Alla Camera dei Comuni, però, c'era una dozzina di persone piacevolissime. Nel Parlamento inglese non ho mai ascoltato discorsi migliori di quelli di Flood o di Daly, il deputato di Galway. Benché non fosse una persona ben educata, Dick Sheridan era un commensale divertente e fantasioso come ne ho visti pochi. E anche se durante gli interminabili discorsi di Mr. Edmund Burke al circolo degli inglesi mi addormentavo sempre, ho saputo da fonti ben informate che Mr. Burke era una persona di notevole talento e che nei suoi momenti migliori lo si considerava addirittura eloquente. Cominciai ben presto a godere pienamente dei piaceri che quella misera città poteva offrire a un gentiluomo. Renelagh e la sala da ballo, Mr. Mossop in Crow Street, i ricevimenti del milord luogotenente, dove però si trincava troppo e si giocava troppo poco per una persona con le mie abitudini eleganti e raffinate. Il caffè Delis e le dimore della nobiltà, che ben presto mi furono sempre aperte. Allora notai con grande stupore nei circoli più elevati lo stesso fenomeno che durante la mia prima infelice visita a Dublino avevo osservato in ambienti più umili. Una straordinaria scarsità di denaro e un'assurda quantità di cambiali che sfrecciavano di mano in mano, valori contro cui non avevo certo intenzione di puntare le mie guinee. Anche le signore andavano pazze per il gioco e quando perdevano non volevano assolutamente pagare. Così una volta che la vecchia contessa di Trumpington perse 10 monete d'oro giocando con me ai quadrigliati, invece del denaro, mi diede una cambiale pagabile presso il suo amministratore di Galway. Cambiale che io depositai con grandissimo tatto sulla fiamma della candela. Ma la volta dopo, quando la contessa mi propose di giocare, le dissi che non appena la signora avesse ricevuto le sue rendite, sarei stato il primo ad affrontarla carte alla mano, ma fino a quel momento mi sarei limitato a presentarle i miei umilissimi omaggi. Rimasi sempre fedele a questa risoluzione, mantenendo il mio singolare atteggiamento davanti a tutta la buona società di Dublino. Avevo annunciato nel caffè Delis che ero pronto a giocare con qualsiasi persona, per qualsiasi somma, a qualsiasi gioco, o anche a tirar di scherma, o a fare una corsa di cavalli, a condizione che si tenesse conto del peso corporeo dei contendenti, o a colpire un bersaglio mobile o fisso, e in quest'ultima specialità, soprattutto se il bersaglio è vivo, i gentiluomini irlandesi di allora possedevano un'abilità fuori dell'ordinario. Naturalmente, mandai un corriere vestito della mia livrea a Castle Lindon con una lettera personale per Rant, chiedendogli di fornirmi tutti i dettagli sullo stato d'animo e di salute della contessa di Lindon. Inviai anche una lettera commovente ed eloquente a sua signoria Lindon, in cui la invitavo a ricordare giorni lontani. La lettera era legata con un capello della ciocca che avevo acquistato dalla sua cameriera, e le dicevo che Sylvander ricordava il suo giuramento e non avrebbe mai dimenticato la sua Calista. La sua risposta fu molto insoddisfacente e ben poco esplicita. Quella di Mr. Rant anche troppo esplicita e per nulla piacevole quanto ai contenuti. Milord George Poynings, il figlio minore del marchese di Tiptoff, stava visibilmente dedicando tutte le sue attenzioni alla vedova. Era un parente dei Lindon, chiamato in Irlanda per la lettura del testamento di Sir Charles. Ora, a quei tempi c'era in Irlanda una specie di procedimento legale spicciativo, che riusciva molto utile a chi desiderava che gli fosse fatta giustizia in tempi brevi. Era un sistema di cui i giornali dell'epoca contengono decine di esempi. Individui che si facevano chiamare Capitano Fireball, Tenente Bathcote o Alfiere Steele spedivano regolarmente lettere minatorie ai grandi proprietari terrieri. E se le loro richieste non venivano soddisfatte, li assassinavano. Il celebre capitano Thunder dettava legge nelle contee meridionali. Sembrava che la sua professione consistesse nel procurare una moglie a gentiluomini che non possedevano mezzi sufficienti a soddisfare i genitori delle signorine desiderate, o forse non avevano tempo per un corteggiamento lungo e intricato. Io avevo trovato a Dublino mio cugino Ulrich molto ingrassato, molto povero e perseguitato dai creditori. Viveva qua e là, negli angoli più strani, e ne usciva al cader della notte per andare al castello o alla sua solita partita a carte in taverna. Ma era ancora un tipo coraggioso e gli accennai i miei sentimenti per Lady Lyndon. «La contessa di Lyndon!» disse il povero Ulrich. Accidenti, questa sì che è una sorpresa. Io stesso sono stato innamorato o cotto di una signorina, una dei Kilioys di Belliek. Ha una fortuna di 10.000 sterline e per tutrice sua signoria la contessa. Ma come fa un povero diavolo senza neppure un vestito decente a fare progressi con una ereditiera che per giunta se ne sta in simile compagnia? Tanto varrebbe chiedere la mano alla contessa in persona. Meglio non farlo, dissi con una risata. Chi ci prova ha buone probabilità di andare all'altro mondo prima di sposarla. E gli spiegai le mie intenzioni riguardo a Lady Lyndon. L'onesto Ulrich, che aveva un rispetto prodigioso per me da quando aveva visto il mio splendido aspetto e saputo delle mie meravigliose avventure e di tutta la mia esperienza di vita mondana, restò sbalordito in ammirazione della mia audacia ed energia quando gli confidai che volevo sposare la più grande ereditiera d'Inghilterra. Ordinai ad Ulrich di lasciare la città col pretesto che più gli piaceva e di depositare in un ufficio postale presso Castle Lyndon una lettera che io avevo scritto con una calligrafia irriconoscibile. Era un solenne avvertimento a Lord George Poynings. Doveva lasciare il paese. Il grande premio non era destinato a gente come lui. C'erano ereditiere a sufficienza in Inghilterra, senza bisogno di andare a rubarle dai domini del capitano Fireball. La lettera era scritta su un pezzo di carta sporca, con ogni sorta di errori di ortografia. Fu recapitata al milord a giro di posta e lui, che era un giovane coraggioso, naturalmente ci fece una risata sopra. Per sua disgrazia, Lord George comparve a Dublino pochissimo tempo dopo. Fu presentato al cavalier Redmond Barry al tavolo del Lord Luogotenente. Si spostò poi con lui e vari altri gentiluomini al loro solito ritrovo, da Daly's. E qui, in una discussione sul pedigree di un cavallo, in cui tutti mi davano ragione, volarono parole grosse. E il risultato fu un incontro tra gentiluomini. Non avevo ancora avuto vertenze d'onore da quando ero arrivato a Dublino e la gente era ansiosa di vedere se fossi pari alla mia fama. Di queste faccende io non mi vanto mai, ma quando viene il momento le porto a termine. E il povero Lord George, che tutto sommato aveva buona mano e occhio pronto, ma era goffo e pesante, avendo imparato a tirare di schirma con il metodo inglese, tenne il campo davanti a me, solo, finché non decisi dove l'avrei colpito. La mia spada gli penetrò sotto la guardia e gli uscì dalla schiena. Quando cadde, mi tese la mano cordialmente e disse: «Mister Barry, avevo torto». Non mi sentii troppo a mio agio quando quel povero ragazzo fece questa confessione. La lite L'avevo provocata io, e a dire il vero, non avevo mai avuto intenzione di farla finire altrimenti che con quel duello. La ferita lo tenne a letto 4 mesi, e la stessa diligenza che ricapitò a Lady Lyndon la notizia del duello le portava un messaggio del capitano Fireball, che diceva: «Questo è il numero uno. Tu, Ulick, dissi, sarai il numero due». «Ah, diamine!» disse mio cugino. «Uno può bastare!» Ma io avevo un piano che lo riguardava e decisi che avrei al tempo stesso dato una mano al mio bravo compagno e favorito le mie mire sulla vedova. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.